Il problema degli obiettivi che noi ci poniamo, e in questo caso ancora una volta il discorso fa leva sulla figura paterna, e ora proverò a dire perché questo discorso deve necessariamente far leva sulla figura paterna. E qui si innesta un'altra questione che nel tempo è stata del tutto annacquata, tant'è vero che oggi non se ne riesce più a parlare, non soltanto con cognizione di causa, ma attribuendogli una reale valenza. Il problema, cioè, dell'insegnare ai propri figli a scoprire e condividere valori. Perché? Primo, perché nessuno sa, o meglio, sa, non sa, finge di non sapere o finge di non capire che cosa sono questi valori. E perché peraltro ormai per buona parte questi valori non sono neanche più impersonati e vissuti dagli stessi genitori. E allora evidentemente il figlio rischia di vivere una dissociazione permanente. A, perché non è detto che quello che noi proviamo a trasmettere sia effettivamente, quindi oggettivamente, un valore. B, perché se noi, come dire, per primi non riusciamo ad incarnare con la nostra vita questi valori, il figlio si chiederà perché questo modello schizofrenico. Adesso faccio una battuta, ma non è una battuta perché appartiene ad una questione vera. Quando il secondo dei ragazzini frequentava il catechismo, una volta ho preso un suo compagnetto dal catechismo e l'ho accompagnato a casa. Allora mio figlio dice domani ci vediamo perché non so, c'è prima della messa in chiesa, non so, un'attività diciamo ludica, formativa, dice così, poi andiamo a messa perché dopo il catechismo, il giorno dopo c'è la messa. E lui dice, ma io ho bisogno di qualcuno che mi accompagni. A mio figlio dice, e perché, scusa, non c'è tuo papà? Dice, no, sai, mio papà mi ha detto che ha avuto la dispensa dal vescovo per andare a messa. Ovviamente, ma un fatto reale, non è un caso. Giustamente il bambino viveva una situazione abbastanza schizofrenica. Il risultato qual era? Ovviamente, che si è verificato automaticamente, che non appena è finito il catechismo, il bambino in chiesa ovviamente non ci è andato mai più, no? Dico, al di là delle valutazioni, sì, no, perché? Perché evidentemente aveva avuto costruito un modello che, come dire, implicava una dissociazione strutturale tra il comportamento del padre e il comportamento del figlio. Ovviamente quando il figlio è cresciuto un po' e si è interrogato, ha capito che quella era una scusa da parte di suo padre, l'ha elaborata e ha detto, scusa, ma se non ci va lui, perché ci devo andare io? Perché poi evidentemente il figlio, soprattutto in una certa fase della propria vita, vive per logica imitativa del padre, poi lo rifiuterà. E lo rifiuterà tanto più fortemente quanto più la sua logica imitativa si è sviluppata nel tempo, tanto più quanto lo ha immaginato come suo eroe. Poi, come dire, romperà, è l'unico modo per costruirsi una personalità autonoma, altrimenti, come dire, non sboccerà mai. In tutti questi casi ciò non sarà mai possibile. O comunque il risultato che si otterrà sarà certamente un risultato negativo. E allora, da questo punto di vista, già l'idea della nostra riflessione su che cosa si intende da parte nostra per la trasmissione dei valori a un figlio è un problema oggi molto complesso, perché tutto quello che ci circonda, diciamo che non ci agevola molto, anzi, diciamo, tende sostanzialmente ad affossarci. E allora probabilmente quello che si può immaginare in questo rapporto, come dire, di filiazione biologica con la madre e di filiazione, chiamiamo così, alla vita del padre, è legata alla circostanza che bisogna provare a convincere il figlio, e ovviamente non è un fatto che si realizza oggi, domani o dopodomani, è un percorso che nel tempo richiede continuità e molta pazienza, che la circostanza che io possa parlare a lui di determinati valori, ad esempio l'onestà. I miei figli mi chiedono continuamente perché quando stiamo tutti insieme, e come dire, nel senso buono, cerchiamo di capire che cosa succede nel mondo esterno, non appena si accende il telegiornale, le prime 10 notizie, delle 10 che sono presenti nel telegiornale, raccontano di persone arrestate perché hanno rubato, di gente arrestata perché ha ammazzato, di quello che sta facendo, e giustamente dicono, ma noi non abbiamo sempre convenuto che tutto sommato la persona è una cosa buona, che bisogna provare a vivere in una dimensione, in un contesto che sia tale da consentire il nostro sviluppo, che dobbiamo stare bene insieme. Allora è evidente che questo discorso che proviene dall'esterno per noi è un colpo molto forte, soprattutto perché mio figlio vuole spiegato: papà, ma perché bisogna vivere l'onestà? Dice: oggi nel compito di italiano ho preso 5 perché non mi sono copiato la traccia in bagno dall'iPhone. Dice: però mi viene la tentazione di farlo, perché io ho preso 5 e quello ha preso 9. Il fatto oggettivo esiste, perché io poi sarò valutato così. E l'insegnante non riuscirà a distinguere. Saprà che io ho preso 5 e sono una capra, quello ha preso 9 ed è un genio. Cioè, come lo smontiamo questo fatto? Certo, io non andrò a dire mai all'insegnante: guarda quello, se copiate il tema. Dice: però mi brucia. Come si spiega? Si spiega dicendo: guarda, se tu intanto hai preso 5, un motivo ci sarà. Probabilmente, forse devi studiare un po' di più. Partiamo da te. Poi a lui ci pensiamo, però tieni presente che questo modello di conoscenza che lui ha elaborato prima o poi emergerà, è una questione di tempo. Certo, poi magari tu qualche rospo lo dovrai ingoiare, anche se poi molte volte per i figli non è opportuno tradurre dicendo: ah, ancora chissà che devi vedere nella vita, perché quelli si mangiano dei segnali apocalittici, no? Il modello di cui oggi si parlava nell'oratore sottostante delle cose ultime, la rivelazione, chissà che cosa si aspetta, no? Insomma, nostro figlio. Però ovviamente va introdotto, cioè va tolto dal mondo della fiaba, della favola, e va introdotto nel mondo del reale, che però lui comincia a sperimentare in prima persona, perché comincia a vivere quei conflitti che in casa si sono potuti porre e che poi all'esterno si proiettano. E se noi non lavoriamo, e questo riguarda soprattutto noi padri, su questo profilo, perché noi siamo il loro imprinting, noi siamo il loro punto di riferimento ineliminabile, perché dalla mamma si va, diciamo, per avere il più delle volte cura, assistenza, tenerezza, affetto, perché è normale che sia così. Poi insomma anche il padre dovrebbe sforzarsi di essere affettuoso e tenero, anche se gli viene un po' dalla mano manca, no? Come si dice anche qui in British. Però da noi chiedono risposte, cioè da noi vogliono sapere come funziona questa vita, perché io sono un po' confuso, perché qui si discute che dobbiamo essere così con l'Igor, poi esco e vedo quello che se la calia e poi mette la firma del genitore falsificando il libretto. E allora dice: papà, ma tu la firma come la metti nel libretto? E allora già uno si preoccupa, dice: ma perché ti interessa? No, sai, così, perché non lo so, perché la tentazione viene, ma è normale che sarebbero anormali se non venisse loro questa tentazione, mica sono stati, come dire, robotizzati, cioè per certi versi è anche giusto che siano così, e magari qualche volta ci prenderanno pure in giro, perché ci può stare e può capitare. E il problema è che, come dire, a parte il fatto che non può diventare un'attività seriale, però anche se noi ce ne accorgiamo, non è detto che l'impatto muro contro muro dia dei risultati. Bisogna andare, come dire, per le vie traverse. Poi questa cosa verrà fuori, perché poi loro stessi, se sono cresciuti in un modello relazionale aperto, la tireranno fuori e diranno: sai papà, però ti devo dire una cosa. Ma tu mi prometti che non lo dici alla mamma? Ho detto: garantito, garantito. Ma è sicuro che poi non mi togli il cinema il sabato? Dico: sì, vediamo di che si tratta. Perché i figli sono degli ottimi negoziatori, non so voi che esperienza avete, ma con me si negozia continuamente. Dice: ma se io ti faccio questo, tu che mi dai? No? Che è anche una logica che aiuta loro, diciamo, a guadagnarsi il pane quotidiano, chiamiamolo così.